Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it. Effetto notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Oggi siamo chiamati, oggi, non domani, a prendere decisioni forti e definitive. Io ritengo che non ci sia più un'ora di tempo da perdere. Io credo che dobbiamo decidere oggi. Comunicherò al governo non solo la mia richiesta di lockdown su tutta Italia, ma per quello che riguarda la Campania procederemo in direzione della chiusura di tutto. L'avete sentito, care ascoltatrici, cari ascoltatori, un preoccupatissimo e fermissimo presidente della regione Campania, De Luca, che non solo ha annunciato a breve un lockdown, una chiusura generale della regione Campania, ma anche la sua volontà di proporre al governo, al presidente del Consiglio Conte, un lockdown generalizzato per tutta l'Italia. Ora, Conte in queste ore sta resistendo molto, anche se da più parti si chiedono delle misure stringenti. C'è anche una lettera di 100 scienziati che è arrivata oggi, una lettera appello al Presidente della Repubblica Mattarella, che chiede entro 2 o 3 giorni delle misure molto molto severe per non vedere tra poco, dicono, centinaia di morti. Insomma, la situazione è molto seria, cercheremo di capire che cosa sta succedendo, che cosa sarebbe opportuno fare, per esempio chiedendo il parere a uno che è stato un faro nei mesi bui del coronavirus della scorsa primavera, che è il professore Andrea Crisanti, e poi sentiremo anche uno dei firmatari di questa lettera appello al Presidente della Repubblica Mattarella. Per quanto riguarda la scuola, sapete che tante regioni si stanno ormai muovendo una dietro l'altra verso la cosiddetta DAD, cioè la didattica a distanza per le superiori. La ministra Azzolina continua a rimanere molto contraria, e anche i presidi, sentiremo il Presidente dei Presidi Giannelli. Per i vostri commenti, prima di sentire la sintesi della giornata, approfondimenti con gli ospiti, vi ricordo i vostri canali privilegiati per intervenire qui a Effetto Notte, che sono la pagina Facebook di Effetto Notte, oppure i vostri WhatsApp li potete inviare al 349-238-6666, 349-238-6666. Lasciate le cinture che si parte. L'epidemia di coronavirus in Italia, continuano a salire i contagi, l'incremento nelle ultime 24 ore di 19.143 a fronte di 182.032 tamponi, il numero più alto dall'inizio dell'emergenza. Le vittime sono 91. Intanto l'Istituto Superiore di Sanità avverte, l'epidemia è in peggioramento, sono necessarie delle misure, e a Mattarella arriva la lettera appello di 100 scienziati che dicono bisogna evitare di arrivare a centinaia di decessi al giorno. A Effetto Notte uno dei firmatari è il professor Crisanti. Conte frena sul lockdown totale e lo chiede il presidente della Campania De Luca, confronto aperto nel frattempo tra governo e regioni, e intanto anche Piemonte e Calabria introducono il coprifuoco. Scuola sulla didattica a distanza, la ministra Azzolina avverte, una nuova chiusura degli istituti avrebbe conseguenze drammatiche sui ragazzi. Ospite per parlarne con Effetto Notte il presidente dei presidi Giannelli. L'allarme dell'OMS, in troppi paesi l'aumento del virus è esponenziale. Sport, Giro d'Italia verso la volata finale di domenica a Milano, tappa oggi accorciata su richiesta dei corridori, calcio in Serie A maschile in campo Sassuolo-Torino. Partiamo quindi dall'andamento dell'epidemia di coronavirus in Italia. Continuano a salire i contagi, l'incremento nelle ultime 24 ore è di 19.143 nuovi casi, le vittime sono 91 in un giorno, ieri erano 136, e portano il totale a oltre 37.000. Secondo il bollettino del Ministero della Salute, l'incremento nelle ultime 24 ore è di 19.143 positivi, individuati però con un numero record di tamponi, oltre 182.000, il numero più alto dall'inizio dell'emergenza. Scende il numero dei morti, 91 in un giorno, ieri erano 136. Su 8.200 posti di terapia intensiva oggi disponibili in Italia, l'11% è occupato da pazienti Covid. Il dato è contenuto nel report settimanale del commissario straordinario per l'emergenza Domenico Arcuri. La regione con la percentuale più alta di pazienti in terapia intensiva rispetto ai posti a disposizione è l'Umbria. Subito dopo c'è la Campania e la Sardegna. Intanto 100 scienziati si sono appellati al Presidente della Repubblica Mattarella perché vengano prese misure più drastiche, fra loro economisti, geologi e astronomi. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E qui effetto note, tra poco ci sarà proprio uno dei firmatari di questa lettera appello a Mattarella, che è Giorgio Parisi, Presidente dell'Accademia dei Lincei. E prosegue il dibattito tra governo e regioni su se e come introdurre misure più restrittive. Siamo ancora dentro la pandemia, dobbiamo tenere l'attenzione altissima, dobbiamo scongiurare un secondo lockdown generalizzato. Lo ha ribadito ancora una volta, parlando al Festival del Lavoro, il presidente del Consiglio Conte, che resiste sulla linea della prudenza, nonostante stia pensando con i suoi ministri a nuove misure per arginare i contagi. Il governo, ha detto Conte, è pronto a intervenire in qualsiasi momento, ma evitando l'arresto dell'attività produttiva e la chiusura di scuole e uffici pubblici. Contrario al lockdown nazionale anche il governatore Fontana, pur definendo violento la ripresa della circolazione del virus in Lombardia. Dalla campagna, però, l'appello ad una chiusura totale immediata è arrivata dal governatore De Luca, che promette, se no, il massimo provvedimento per la sua regione. Sentiamolo. Di fronte ai numeri del contagio che abbiamo oggi in Italia, le mezze misure non servono più a niente. Come trapelato da ambienti della regione, è attesa nel weekend la firma dell'ordinanza che dovrebbe stabilire il lockdown per la Campania. Sotto coprifuoco intanto anche il Piemonte, dalle 23 alle 5, e la Calabria, a partire però da mezzanotte. Misure più restrittive e generalizzate potrebbero essere decise oggi in un incontro tra il governo centrale e le regioni a soli 5 giorni dall'ultimo DPCM. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Intanto l'Istituto Superiore di Sanità avverte l'epidemia in rapido peggioramento. Sono necessarie misure con precedenza per le aree maggiormente colpite che favoriscano una drastica riduzione delle interazioni fisiche tra le persone, che possano alleggerire la pressione sui servizi sanitari, comprese restrizioni nelle attività non essenziali e restrizioni della mobilità. Ospite per parlare con effetto note sarà il professore Andrea Crisanti. La Procura di Genova indaga per il caos nei pronto soccorso cittadini dopo il boom di malati di coronavirus. Il fascicolo è per atti relativi e non ci sono indagati. L'indagine è partita dalle segnalazioni di pazienti e medici sulla mancata attuazione dei piani antivirus. Intanto per i PM di Bergamo, i vertici dell'ospedale di Alzano Lombardo dichiararono il falso quando scrissero che la struttura era stata sanificata e la riaprirono. Il reato contestato è quello di epidemia colposa aggravato dalla morte di più persone. Un altro importante capitolo è quello della scuola, con gli studenti tornati in larga parte alla didattica a distanza, ma ci si divide su una chiusura totale degli istituti. La ministra Azzolina avverte una nuova chiusura degli istituti avrebbe conseguenze drammatiche sui ragazzi. Poi, per parlarne qui durante la puntata di Effetto Note, sarà ospite il presidente dell'Associazione dei Presidi, Antonello Giannelli. Spostiamoci all'estero, anche lì contagi in aumento, in Europa e nel resto del mondo. L'Organizzazione Mondiale della Sanità avverte, momento critico, i prossimi mesi saranno molto duri. I casi Covid nel mondo, secondo gli ultimi dati della Johns Hopkins University, si avvicinano a toccare 42 milioni e i morti superano di poco la somma di 1.100.000. Gli Stati Uniti sono il paese più colpito, con oltre 8 milioni e 400 mila casi. Seguono l'India, con 7,7 milioni di malati, e il Brasile, a quota 5 milioni e 300 mila. Al quarto posto c'è la Russia, con poco più di 1 milione e 400 mila casi. Il paese, spiega il ministro della Sanità russa, ha destinato 200 mila posti letto al trattamento dei malati da Covid. In Europa anche Francia e Spagna sono fra i paesi più colpiti, con oltre 1 milione di casi ciascuno. Ma i malati reali, dice il premier spagnolo Sanchez, superano nel paese i 3 milioni. La Comunità di Madrid vieta così riunioni dalla mezzanotte alle 6 del mattino, sia in pubblico sia in privato, fra persone che non siano conviventi. La Svizzera registra un'impennata con oltre 6.000 casi nelle ultime 24 ore, mentre Bruxelles e la Vallonia sono le regioni d'Europa più colpite dal coronavirus. E in Vaticano 13 guardie svizzere sono risultate positive al Covid. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ancora all'estero, un cessate il fuoco permanente in tutta la Libia è stato raggiunto a Ginevra. Una notizia salutata con grande speranza dall'Italia e dall'Unione Europea. Unica voce fuori dal coro, il primo ministro, il presidente turco Erdogan, che reputa la tregua non credibile. Di nuovo in Italia, con la politica e la maggioranza divisa sul MES e con i 5 Stelle divisi anche sul ruolo di Casaleggio. Da una parte Nicola Zingaretti che spinge per le alleanze alle comunali, dall'altra Davide Casaleggio che le respinge. Il segretario Dem parla alla direzione di partito, occorre un patto di legislatura, in questa tempesta non è il momento di navigare a vista, c'è bisogno di un cambio di passo e Zingaretti non retrocede nemmeno sul MES. Il confronto non può essere ideologico come pretendono i 5 Stelle, non ci possono essere bandierine inamovibili di partito. Gelata da parte di Davide Casaleggio. Le alleanze non devono essere per forza con il PD, spiega, il movimento è nato come terza via e devono essere gli iscritti a decidere. Sul fatto che la piattaforma Rousseau possa essere messa al margine dagli stati generali, Casaleggio risponde che è inscindibile dal movimento la partecipazione dal basso, altrimenti si passa all'organizzazione di partito. Se questo diventa il movimento, lui farà altro. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 ore Roma. Trasporti e cancellazioni a causa del Covid. La pressione dell'antitrust spinge le compagnie aeree ora anche al rimborso dei voli, mentre i treni prendono tempo sulla programmazione dell'orario invernale. Si ferma un passo dai provvedimenti l'antitrust perché facendo un salto in avanti Ryanair, EasyJet, Vueling e Blue Panorama offrono anche il rimborso dei biglietti in caso di cancellazione dei voli, in tempi certi attraverso procedure automatizzate. Ora i consumatori possono scegliere tra rimborso o voucher con strumenti di contatto gratuiti, potenziati call center. Queste le motivazioni dell'autorità che ha deciso di non adottare alcuna misura cautelare a conclusione di 4 sub-procedimenti nei confronti delle compagnie avviati a fine settembre per sospendere la vendita di biglietti per voli poi cancellati unilateralmente, motivando con il Covid, offrendo soltanto i voucher, sebbene i servizi si riferissero a un periodo e a destinazioni senza i limiti di circolazione stabiliti dai provvedimenti governativi. Maria Pisano, direttore Centro Europeo Consumatori. Anche durante il periodo Covid, anche i voli cancellati per causa Covid, comunque dovevano essere gestiti in applicazione del regolamento 2.1, perché è una normativa europea e non può essere declassata da una normativa nazionale anche se di emergenza. E per i treni arriva la rassicurazione di Trenitalia, non trovando ancora consultabili gli orari invernali, la disponibilità agli inizi di novembre, operatività da domenica 13 dicembre, ma stavolta le valutazioni sono state ovviamente più approfondite. Anna Marino, Radio 24, Sole 24 Ore. La cronaca, resta di 6 anni di reclusione la condanna per l'ex sindaco di Roma Giovanni Alemanno, coinvolto in uno dei filoni della maxi indagine della Procura di Roma sul Mondo di Mezzo. I giudici di appello hanno ribadito l'impianto accusatorio nei confronti dell'ex primo cittadino, a cui sono contestati reati di corruzione e finanziamento illecito. Proclamo la mia innocenza come ho fatto sin dal primo giorno, dice l'ex ministro dell'Agricoltura Alemanno, ricorrerò, dice, in Cassazione. Per chiudere lo sport, Giro d'Italia, domenica il gran finale a Milano e oggi tappa tribolata con un mezzo ammutinamento dei corridori. Non sappiamo chi vincerà il Giro d'Italia, sappiamo però solo che questa volta sono tutti i corridori ad aver perso. Sarebbe dovuta essere la tappa più lunga della Corsa Rosa, 258 km da Morbegno ad Asti, ultima occasione per le ruote veloci, antipasto del gran finale sul Sestriere e della cronometro di Milano. Ma circa 20 minuti prima dello start il colpo di scena prende piede la scelta di alcuni corridori, poi accolta dalla maggioranza del gruppo, di non percorrere tutto il tragitto. Tra i motivi, il lungo chilometraggio e le condizioni meteo, freddo e pioggia battente dopo 2 impegnative giornate di montagna. Dalle parole ai fatti, andatura turistica fino al chilometro 10 di gara, poi lo stop con gli atleti che salgono sui loro motoroma. L'organizzazione predispone una nuova ripartenza, il nuovo via slitta alle 14.30 da Abbiate Grasso e frazione accorciata in modo significativo, 124 i chilometri in meno dei 258 previsti. Vincerà il Ceco Cern, adesso 20ª tappa, da Alba a Sestriere, 190 km, potrebbe essere decisiva sempre che abbiano voglia di correre. Piero Augusto Stagi, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E per chiudere il calcio, stasera Serie A maschile in campo con l'anticipo Sassuolo Torino, domani Atalanta Sampdoria, Genoa Inter e Lazio Bologna. Per il momento mi fermo qui in modo da aggiornare chi si sta muovendo su strade e autostrade e tra poco cominciamo ad approfondire alcuni temi con gli ospiti. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Da nessun'altra parte trovate tutte le notizie più importanti dall'Italia e dall'estero, qui che vi racconto tutte le sere dal lunedì al venerdì. Roberta Giordano sempre con voi, e poi approfondimenti con gli ospiti che ci aiutano a addentrarci nel cuore di certi argomenti che sono in primo piano, che dobbiamo conoscere fino in fondo. Per i vostri messaggi, pagina Facebook di Effetto Notte, oppure il numero per i WhatsApp, che è 349-238-6666. C'è per esempio sulla pagina Facebook di Effetto Notte Christian che dice: triste dirlo, ma temo che De Luca abbia ragione, che dice siamo ormai in mezzo a un dramma e che non solo vuole chiudere la campagna ma chiede un lockdown nazionale. Mentre c'è qualcuno che paragona De Luca a Lukashenko, il capo del regime bielorusso, insomma, quindi posizioni contrastanti, però poi adesso cercheremo di capire che cosa dicono in proposito gli esperti. Siamo ancora dentro la pandemia, dobbiamo tenere l'attenzione altissima. Forte dell'esperienza già vissuta della scorsa primavera, dobbiamo contenere il contagio puntando a evitare l'arresto dell'attività produttiva e lavorativa, come pure la chiusura delle scuole e degli uffici pubblici. Dobbiamo scongiurare un secondo lockdown generalizzato. Per far questo dobbiamo rimanere vigili, prudenti, pronti a intervenire nuovamente in qualsiasi momento ove fosse necessario. Quindi, dice il Presidente del Consiglio Conte, pronti a intervenire ovunque fosse necessario. Avete sentito appunto che i contagi in Italia continuano a salire giorno di giorno in giorno. I nuovi casi nelle ultime 24 ore sono state, come vi dicevo nella prima parte, 19.143, è vero, anche un numero record di tamponi, 182.000, il più alto finora, ma insomma la situazione è seria, le vittime sono 91. Sale la pressione sul governo da parte di esperti, da parte delle regioni, amministratori locali per misure più restrittive o almeno un lockdown localizzato, mentre avete sentito De Luca lo chiede proprio a livello nazionale. L'Istituto Superiore di Sanità nel monitoraggio settimanale avverte che l'epidemia è in peggioramento, che sono necessarie misure stringenti, e poi è arrivata a Mattarella la lettera appello di 100 scienziati che dicono bisogna assumere provvedimenti stringenti e drastici entro 2 o 3 giorni se non vogliamo a breve vedere centinaia di morti. Poi li sentiremo. Molte città e molti comuni da nord a sud bloccano la movida, cominciano a prendere questi provvedimenti con chiusura di vie e di piazze. Diverse regioni si affidano alla DAD, alla didattica a distanza per quanto riguarda le scuole superiori, alcune altre invece sono già passate al coprifuoco serale notturno, come Lombardia, Lazio, Piemonte, la Calabria, la Campania di De Luca, che invece annunciato, l'avete sentito prima, di voler proprio chiudere del tutto la regione. Conte cerca di resistere, ma il governo a questo punto è un bivio. E allora, che cosa farebbe l'esperto che ha creato il modello Veneto, apprezzato a livello internazionale e che nei mesi più bui della scorsa primavera è stato il faro, insomma, che ha illuminato appunto quei mesi neri? Andrea Crisanti, direttore del Dipartimento di Medicina Molecolare e Virologia all'Università di Padova. Professor Crisanti, bentornato qui a Effetto Notte. Grazie per l'invito. Buonasera. Professore, secondo lei tutto questo, qualcuno dice questo è allarmismo, sta generando pessimismo, depressione, eccetera, eccetera, è allarmismo infondato oppure effettivamente la situazione in Italia sta diventando sempre più seria? Guardi, se noi prendiamo i ricoverati delle tante malattie infettive e i ricoverati in rianimazione, i morti, stiamo su una situazione molto molto simile a quella dei primi giorni di marzo. Quindi, e anche la dinamica di crescita è molto simile a quei giorni. Quindi sicuramente siamo in una situazione di trasmissione a livelli quasi esponenziali. Quindi io penso che le misure bisognava prenderle probabilmente qualche settimana fa, perché i casi non è che sono in aumento dall'altra settimana, sono in aumento ormai da fine agosto, inizio settembre, ed era questo aumento lieve ma costante che mi aveva indotto a suggerire di prepararsi, perché guardi, se noi facciamo il lockdown adesso e facciamo tutte le misure restrittive di questo mondo, tiriamo giù i casi e poi come li consolidiamo? Non abbiamo un sistema per consolidare i casi. E guardi, tutti questi tamponi di cui stiamo facendo adesso, la maggior parte sono tutti tamponi cosiddetti rapidi che hanno una sensibilità ridotta e tra le altre cose probabilmente non prendono tutte le varianti del virus e a mio avviso a lungo andare creeranno più danno che beneficio. Senta, secondo lei questi coprifuoco che varie regioni stanno adottando, serali notturni appunto, più o meno dalle 22, per lo più dalle 23 fino alle 5, sono efficaci secondo lei? Ma guardi, so, sono efficaci nella misura che riducono il numero dei contatti, perché chiaramente tra persone, perché il virus sfrutta il comportamento sociale umano e quindi più contatti ci sono e più probabilità ci hanno di trasmettere il virus, cioè di trasmettersi. Certo, fare coprifuoco dalle 23 alle 11 mi sembra una misura un po' palliativa, ecco, a dirlo sinceramente, con questi livelli di trasmissione. Se per quanto riguarda invece la didattica a distanza, le sembra comunque una cosa necessaria, cioè di far tornare... Guardi, sulle scuole il problema, sai qual è? È che noi abbiamo aperto le scuole con delle misure e poi non abbiamo verificato se queste stavano funzionando. Avevamo, e qui lo dico, e sembra paradossale, ma i testi rapidi invece sanno molto bene per monitorare la situazione delle scuole, noi avremmo dovuto sin dal giorno 1 dell'apertura delle scuole a fare campionamenti per capire se le scuole erano un fattore che induceva la trasmissione. Ma lei ha mai sentito parlare di una serie di scuole a cui è stato fatto questo screening nelle varie città d'Italia? No. Quindi al momento attuale noi non sappiamo se le scuole contribuiscono o no. Leggevo, mi pare, non so se nel rapporto dell'IS, Istituto Superiore di Sanità, che per il momento sarebbero i focolai che si stanno producendo in Italia per quanto riguarda le scuole sarebbero il 3,5% del 100% nazionale. Ma guardi, ma questa di nuovo è un'immagine falsata, perché nei ragazzi la maggior parte delle infezioni sono asintomatiche, addirittura nei giovani, nei bimbi da 5 a 11 anni possono essere inferiori all'1%, quindi più o meno la stessa cosa accade in quelli più grandi, quindi se ne troviamo 100 significa che ce ne abbiamo 10.000, ora ne sono stati registrati più di 1.500, quasi sicuramente abbiamo più di 150.000 bambini infetti. Professore, allora, De Luca, il presidente della Campania, ha chiesto il lockdown nazionale. Conte cerca di resistere al momento perché si sa che sarebbe, insomma, da un punto di vista economico e anche sociale, un impatto enorme. Lei che cosa pensa? Ma guardi, io penso che è mancata programmazione e visione e adesso siamo a corto di opzioni. E quindi qual è l'opzione per lei? Se siamo così a corto, c'è ancora qualcosa che si può fare? Ma guardi, qualche cosa che si può fare sarebbe veramente varare un piano di sorveglianza nazionale che integri veramente una politica seria di identificazione dei contagi e blocco della trasmissione, integrata con l'app Immuni, integrata con la capacità di portare i test alle persone che ne hanno bisogno. Però c'è da dire una cosa, che per sviluppare questa cosa ci vogliono mesi, ci vogliono almeno 2 o 3 mesi. Quindi è chiaro che quello che andremo avanti noi adesso saranno delle misure di restrizione che più o meno blande, che ci porteranno a livelli di trasmissione, qui appunto sarà inderogabile fare un lockdown. Lei dice che prima o poi si arriverà al lockdown nazionale, generale, quindi... Ma guardi, con questi livelli di trasmissione non so come faremo, sinceramente. Senta, invece per quanto riguarda, ecco, quando gli ascoltatori dicono ma insomma però bisogna mantenere vive le attività essenziali e molti... Hanno ragione, ma bisogna mantenere vive non solo le attività essenziali, bisogna mantenere vive tutte le attività e la responsabilità, mi creda, non è degli italiani che non hanno messo la mascherina, la responsabilità è di chi non ha preparato il paese a consolidare i risultati che abbiamo ottenuto dopo 3 mesi di lockdown. Vuol dire, abbiamo buttato l'8% del PIL e 3 mesi di distruzione della vita di 60 milioni di abitanti, questo abbiamo fatto. Chi è che ha mancato a questa organizzazione necessaria? Chi non ha saputo prevedere che ci saremmo ritrovati in questa situazione e ci stavano gli strumenti per farlo, perché voglio dire, ma se c'è riuscita Taiwan, se c'è riuscito Singapore, la Corea, la Nuova Zelanda, perché non ce l'avamo riuscito quindi noi? Quindi parla del governo, professore. Parlo del governo, il governo risponde e segue anche consigli di tecnici di cui evidentemente si fida. CTS, Comitato Tecnico Scientifico? Ma noi abbiamo ginecologi e altri endocrinologi che praticamente gestiscono l'epidemia, guardi, non si è mai visto da nessuna parte del mondo, mi permetta? Ginecologi e endocrinologi che si occupano di questo, le dice nel CTS, quindi non con la competenza necessaria, secondo lei, per affrontare e gestire la pandemia. A questo punto c'è da chiederselo. perché qualcuno sarà pure responsabile che siamo in questa situazione, no? Già. Sembrava che fino a qualche tempo fa fossimo i più bravi, professor Crisanti, invece ma non siamo mai stati più bravi. Questa è stata veramente una narrativa, a mio avviso, assolutoria e autolesionista. Professore, ci lasci con una considerazione che ci può dare almeno un'indicazione, una strada, molto sinteticamente. Guardi, la strada a questo punto è quella di diminuire il più possibile i contatti tra le persone e cercare di aderire a quelle che sono le indicazioni. Che posso dire? Sicuramente dobbiamo pretendere dai nostri governanti che per ogni cosa che ci chiedono dimostrano che si preparano per il dopo, per non farci fare un terzo lockdown. Grazie professore Andrea Crisanti e buon lavoro. Arrivederci. A presto. Grazie professore. Saluto in collegamento uno dei firmatari di questa lettera appello di cui vi parlavo, di scienziati e docenti universitari che hanno indirizzato appunto questo appello al Presidente della Repubblica Mattarella, tra cui figurano i nomi del rettore della Normale di Pisa Luigi Ambrosio e di Fernando Ferroni, ex presidente dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, che chiedono a Mattarella misure drastiche in 2-3 giorni. E tra loro c'è Giorgio Parisi, fisico dell'Università La Sapienza di Roma, nonché presidente dell'Accademia dei Lincei, che è una delle istituzioni scientifiche più antiche d'Europa. Professor Parisi, buonasera, benvenuto. Qui buonasera, Fattonotte. Grazie. Professore, lei sentiva Andrea Crisanti, che è stato uno dei massimi esperti insomma nei mesi scorsi e ancora adesso in Italia su questi temi relativamente alla pandemia. Voi quindi avete chiesto, addirittura vi siete rivolti a Mattarella, Parisi. Mattarella e a Conte, che sono le due autorità più alte che ci sono in questo paese. E voi chiedete delle misure drastiche entro 2-3 giorni addirittura? Sì, perché guardi, il problema è se i casi raddoppiano in una settimana, in 3 giorni aumentano del 40%. E quindi se uno riesce a risparmiarsi il 40% dei morti non è una cosa da sottovalutare. Cioè, prima si mettono le misure e prima si ottengono i risultati. Voi Parisi avete così chiesto in modo così piuttosto generale delle misure più restrittive o avete anche proposto quali provvedimenti possibilmente adottare? No, perché ognuno fa in qualche modo il suo mestiere. Cioè io sono fisico che so cos'è un esponenziale, so fare un certo numero di conti e quello che posso vedere è che se le cose non cambiano tra meno di 3 settimane arriviamo a 100.000 casi al giorno, 500 morti e più al giorno e poi le terapie intensive completamente disastrate. Evidente che che una situazione di questo genere, il lockdown generalizzato diventerà assolutamente necessario. Quindi l'unica soluzione per evitare un lockdown generalizzato e mantenere i morti sotto 500, cosa che non sarà affatto facile al giorno, è di fare una qualche misura che sia una via di mezzo fra il lockdown generalizzato e la situazione attuale. Quindi un mezzo lockdown, chiamiamolo. Sentiamo ancora De Luca. Sì, mi scusi, prego. Come si faccia in dettaglio questo mezzo lockdown, quali siano le attività da chiudere e così via, lo decidano gli esperti, lo decidono il governo, quindi quello è un altro varie maniche. L'obiettivo è quello importante. Questo è il problema, capire quando farlo, come farlo, quali sono le attività essenziali e cosa no, come mantenere comunque anche in moto l'economia italiana e anche la vita sociale. Sentiamo ancora un passaggio del presidente della Campania De Luca. Perché dobbiamo intervenire oggi? Oggi siamo ancora in tempo. Oggi abbiamo una situazione pesante, ma non siamo alla tragedia. Però siamo a un passo dalla tragedia. Detto in maniera brutalmente chiara, io non voglio trovarmi di fronte qui da noi ai camion militari che portano centinaia di bare di persone decedute. Non siamo garantiti da nessuno che questo non avvenga. se non dalla nostra responsabilità, dalla correttezza dei nostri comportamenti e anche dalle decisioni che prendiamo da subito. Ecco, abbiamo detto De Luca sarebbe favorevole, ha proposto un lockdown nazionale a Conte, che per il momento ha detto di no. Sentiamo invece dall'opposizione che cosa dice la presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. Non sono favorevole a un lockdown, penso che l'Italia non possa permettersi un altro lockdown. Penso che sarebbe esiziale per il nostro futuro. Penso che se si rischia un altro lockdown, questo accada unicamente perché il governo, che sapeva che ci sarebbe stata una seconda ondata, non ha fatto nulla per prevenirla, non ha fatto nulla sulle terapie intensive, non ha fatto nulla per potenziare il trasporto pubblico, non ha fatto nulla di sensato sulle scuole, non ha fatto nulla, come dicevamo, per mettere in sicurezza le persone più a rischio, e oggi la sua è una corsa contro il tempo perché finora è stato incapace. E sentiamo anche la ministra dei Trasporti e Infrastrutture De Micheli. Non faremo un lockdown totale, però stiamo prevedendo misure molto più severe, perché evidentemente il livello dei contagi ha raggiunto un numero, una cifra e una progressione piuttosto preoccupante, quindi stiamo lavorando per misure molto più severe, ma non equiparabili a quelle di questa primavera. C'è una discussione in corso nel governo e sarà il Presidente del Consiglio a comunicarle al Paese, non io ovviamente. Parlato poco fa alla 7, ministra De Micheli, insomma, professor Giorgio Parisi, capiremo man mano se questi giorni porteranno consiglio al Presidente del Consiglio, visto che lui che deve prendere una decisione, il governo e naturalmente di concerto, immagino, con le forze della maggioranza, possibilmente dell'opposizione. Voleva concludere Parisi? Sì, cioè la posizione di De Luca mi trova molto più vicino alla posizione di Giorgia Meloni. Cioè, bisogna rendersi conto che se avessimo con colpo di bacchetta magica raddoppiassimo le terapie intensive, avremmo guadagnato una settimana di tempo prima del lockdown. Quindi non si riesce a combattere una salita esponenziale aumentando le risorse sanitarie. Una salita esponenziale dei casi si combatte solo evitando che ci siano questi casi. E quindi servono delle misure non paragonabili a quelle del giugno scorso, ma vicine e come intensità a quelle del giugno scorso, un po' più deboli, però sostanziali. Chiarissimo. Grazie professor Giorgio Parisi, ricordo presidente dell'Accademia dei Lincei. Grazie, buona serata professore. Grazie, buona serata anche a lei. Grazie. Adesso, piccola pausa come sempre di riflessione. Voi continuate con i vostri commenti tra pagina Facebook di Fettonotte, i WhatsApp al 349-238-6666. Tornerò a Ratta con la Folgore per parlare col presidente dei Prestiti. Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte anche quest'ultimo giorno della settimana, lo state ascoltando perché è qui che trovate a fine giornata tutto quello che dovete sapere per non dover dire un giorno io questa non la sapevo, a proposito di una notizia importante. Roberta Giordano sempre con voi per i vostri messaggi, pagina Facebook di Effetto Notte, il 349-238-6666, dove un ascoltatore scrive: il governatore della Campania, quando la pandemia esplose al settentrione, voleva impedire l'ingresso nella sua regione. Oggi che non riesce a gestire il virus a casa propria vuole chiudere tutto il paese, dice la logica di De Luca si commenta da sé, qualcun altro invece lo sostiene. Adesso però parliamo di un aspetto molto delicato fra i tanti, insomma, questo diciamo che è importantissimo per il paese, per il governo. Le regioni tra i primi provvedimenti hanno preso quello della DAD, della didattica a distanza per le scuole. Man mano una regione dopo l'altra lo sta facendo per decongestionare il trasporto pubblico locale, prima di tutto, e per evitare circolazione in più, che è quella delle ragazze e dei ragazzi. Ne voglio parlare con il presidente dell'Associazione Nazionale Presidi, Antonello Giannelli. Bentornato professor Giannelli. Buonasera a tutti gli ascoltatori. Allora, sappiamo che De Luca ha chiuso tutte le scuole, che molti, appunto, e anche la Lombardia stessa ha deciso la didattica a distanza, con la ministra Azzolina molto arrabbiata, che continua a dire che tutto questo potrebbe avere una conseguenza molto grave sui ragazzi e sul loro futuro, però per molte regioni sembra l'unica soluzione, appunto, per cercare di ridurre un po' la mobilità in generale. Voi presidi, a vostra volta, non siete molto d'accordo con quello che sta avvenendo, professor Giannelli? Beh, sì, il punto è esattamente di capire quanto questa sospensione della didattica in presenza e quindi questo divieto generale di circolazione per gli studenti, poi qui si parla generalmente degli studenti di secondario e di secondo grado, nel caso della Campania è diverso perché è stata sospesa la presenza per tutte, però in generale questo numero di studenti è un numero percentualmente limitato rispetto al numero totale di passeggeri. Quindi il beneficio che se ne potrà trarre sospendendo la didattica in presenza dal punto di vista dei trasporti secondo me sarà marginale e in compenso ci sarà un danno enorme sulla qualità della didattica, non perché la didattica digitale non si presti a un lavoro di qualità, ci tengo a dirlo, l'ho detto anche durante il lockdown, è uno strumento che può essere anche valido per gli studenti più grandi, però sicuramente non consente quegli apprendimenti che necessitano di attività laboratoriali, che negli istituti tecnici e professionali soprattutto sono molto importanti, e così come non consente agli studenti con disabilità di vario genere di progredire e di progredire in questo percorso di integrazione e di inclusione con gli altri. Quindi io vedo dei danni notevoli che si possono produrre a fronte di un vantaggio assolutamente minimale. D'altronde le scuole non sono luoghi dove si diffonde il contagio, non sono io che lo dico, sono i dati dell'Istituto Superiore della Sanità, lo stesso Ministero li ha ricordati, quindi ripeto, si sta chiudendo la didattica in presenza per difficoltà legate a sistemi collaterali, da un lato i trasporti e dall'altro non dimentichiamo le ASL che non riescono più a effettuare il monitoraggio e il tracciamento dei contatti. Professor Giannelli, per concludere, voi che cosa pensate di fare, nel senso, come la devo lasciare tra pochissimo, mi fanno segno dall'altra parte, cosa pensate di proporre? Quindi ci sono comunque gli orari scaglionati, stanno avvenendo in varie situazioni, in varie realtà? Allora, gli orari scaglionati si possono adottare, non sono un grosso problema, certamente non possiamo pensare di scaglionare dalle 8 di mattina a mezzogiorno, però scaglionare dalle 8 alle 9, 9 e mezzo è una cosa assolutamente fattibile, però anche questa sembra essere una ricetta facile che risolve tutti i problemi e non è così, perché in città le corse sono tante, se andiamo in piccoli centri dove la corsa che porta i ragazzi a scuola è una sola, cosa diventa complicato che tutti si assembrano su quell'unica corsa. Grazie professor Antonello Giannelli, tanto ci ritroveremo spesso insomma su questo tema, purtroppo c'è la viabilità e poi il reportage del venerdì. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Radio 24 Reportage. Covid e contagi, guida ai numeri. Quali contano davvero? Di Alessandro Arona. Curve, grafici, numeri, la pandemia ci ha costretto a fare i conti in tutti i sensi e il dubbio e la contraddizione sono dietro l'angolo. Così il nostro viaggio di oggi non ci porta tra strade e piazze, ma tra tabelle e formule, come in un labirinto in cui cercare l'uscita. E come in tutti i viaggi abbiamo chiesto ad alcune guide di accompagnarci. L'epidemiologa Flavia Riccardo dell'Istituto Superiore di Sanità e il ricercatore di politica internazionale Matteo Villa dell'ISPI. Prima tappa del viaggio, come si misura un'epidemia? La dottoressa Flavia Riccardo. In epidemiologia in genere noi ci concentriamo su tre elementi nella valutazione di un'epidemia: il tempo, il luogo e le persone. Quindi andiamo a capire come cambiano i casi nel tempo, nello spazio, quindi se ci sono delle aree più affette di altre, e poi come cambia la popolazione che contrae l'infezione. Un trucco per valutare l'andamento dell'epidemia nel tempo è quello di valutarlo